Ogni volta che mi sento Manfredi prima parlare, ho sentito le sue parole, si è parlato di un sterminio collettivo, di un genocidio, di una pulizia etnica, parole dure, hanno un significato profondo e non vi nascondo, io ho paura. Mi viene la pelle d'oca ogni volta che sento qualcun altro parlare della Palestina. Mi viene l'angoscia. Ma è possibile che tutta questa cattiveria, a oggigiorno, nel 2024, esista ancora? Ma è possibile vedere questi massacri in corso da 157 giorni che il mondo sta a guardare? A me mi sembra che siamo un incubo, però questo incubo non vuole finire e continua ancora. Ma è il mondo che si è smarrito? Ma è possibile vedere tutti questi massacri senza intervenire? Ma è possibile che Israele, nessuno riesce a imporre a Israele una tregua, un cessate fuoco? Nessuno riesce a prendere l'iniziativa per trovare una via d'uscita diplomatica? Quando finirà tutto questo? Quando finirà tutto il popolo Gazawi? Quando sarà sterminato tutti i bambini di Gaza? Fa male, fa molto male, ma non solo palestinesi, fa male a noi. La umanità che c'è dentro di noi è già morta a Gaza. Che lezioni vogliamo dare ai nostri figli? Mi chiedo spesso, che mondo devo raccontare al mio figlio? Dove ci sono giustizie? Dove c'è l'uguaglianza tra uomini? Dove il bianco e il nero hanno pari diritti. Ma lo vedo che non è così. Vi posso sembrare di pelle chiara, però tutti i miei fratelli sono scuri, sono palestinesi. E vediamo come il mondo ci sta trattando. Vi ringrazio e ringrazio Assobace per organizzare questa iniziativa alla Casa del Popolo, che io ho abitato per 6 anni a Isolotto. Ci portate sempre nel posto dove ho abitato, ho lasciato un pezzo di cuore. E qui a Via Torci Coda, chi sa, di zona numero 11, sono stato per diversi anni. E ho condiviso la casa con un ragazzo di casa, che si chiama Ata Ali, che dal 7 ottobre non ho nessuna notizia. Abitava nel campo di Jbalia, vicino Gaza. Non ho nessuna notizia né di lui né dei suoi fratelli né di nessuno dei suoi parenti. Infatti vedo il loro profilo Facebook che non viene aggiornato da tanti anni. Questo mi fa molto tristezza. E mi ricordo che mi ha insegnato una cosa bellissima e non sono mai riuscito a capirla. I Gazawi in Italia sono pochissimi. I Gazawi a Gaza vivono bene, stanno bene. C'è questo legame bellissimo tra Gazawi. Nonostante la povertà che hanno, io vedevo le foto di casa di Ata, avevano qualche capretta sul tetto di casa, qualche gallina vicino a casa e avevano l'orto dentro casa. Erano originari di una zona vicino a Safat, dove mi raccontava la storia che suo padre ha avuto un infarto quando tornava a lavorare da contadino dentro Israele e gli è capitato di tornare a lavorare in terra sua. Ma immaginate un profugo cacciato via dal 48, va a Gaza, in campo di profughi, poi passano gli anni, torna a lavorare da operaio agricolo, pagato giorno, e torna a lavorare nella propria terra. E mi raccontava questa storia che suo padre ha avuto un infarto quando gli è capitato di tornare a lavorare, ma da non proprietario, nella propria terra. Io spero che Ata stia bene. Tanti dicono che Israele sta facendo questo attacco e non ha nessuna strategia politica o militare. Dicono che Netanyahu sta prolungando questi attacchi per interessi suoi. Io lo vedo un po' invece che hanno un piano preciso e sono andati a applicarlo passo per passo dopo l'8 ottobre. Non è perché qualche spia me l'ha detto, infatti è cominciato nel 48 e poi nel 67 e sta continuando dall'8 ottobre. Il piano dello Stato di Israele, di questo governo, è quello di cacciare via palestinesi e rendere Gaza un territorio sul quale non si può più vivere. Da palestinese che è nato e cresciuto in Giordania, vicino al campo di profughi di palestinesi, Pensavamo che questa storia di cacciare il palestinese sia finita e da tanti anni ci raccontavano che dobbiamo in qualsiasi modo e tra questi gli accordi di pace poter tornare a casa nostra. Abbiamo creduto nel 93, poi sono passati 30 anni e vediamo di nuovo la stessa strage, a differenza nel 48 e 67 che li stiamo vedendo in diretta. A Gaza il 67% della popolazione di Gaza, 65%, sono già profughi, quindi sono stati già cacciati una volta. Però fermiamoci un attimo. Gaza, Deir Balah, Rafah, quella gente non sono stati mai cacciati. Gaza è una città bellissima e mi raccontava Ada che loro stanno bene nonostante la povertà. Il popolo gazawi è molto divertente, ha la battuta pronta e sanno vivere insieme, fare comunità, allegrirsi insieme, di stare in gruppo. E per questo tanti di Gaza vengono qui, studiano, magari lavorano qualche anno e poi decidono di tornare a Gaza. Nei campi profughi, ma neanche nella città, perché a Gaza ci sono le città, tipo la città di Gaza, Rafah, Derbala, gente che non è stata mai stata espulsa, non hanno subito l'occupazione sulla propria pelle per alcuni anni, alcuni dei loro territori sono stati confiscati, sequestrati per fare le colonie che erano dentro Gaza. Adesso immagino, ma vedendo la mappa di Gaza, come faceva un colono a stare in mezzo a Gaza, circondato di tutto questo popolo, pur sapendo che il popolo intorno è affamato, gli manca l'acqua, e mentre erano le colonie dentro Gaza, all'interno di Gaza c'erano delle colonie e poi sono state smantellate nel 2005, se non mi sbaglio, a tempi di Sharon. Un piano il governo israeliano ce l'ha preciso, quella di cacciare i palestinesi dalla loro casa. Infatti hanno preso di mira, non Hamas, hanno preso di mira la vita del popolo palestinese. Ogni pilastro della società civile è stato battuto. Non ne parliamo del numero di civili che, come ha raccontato Manfredo, è una cosa veramente vergognosa. Il 70% delle case civili sono state distrutte, tutti gli ospedali. Una cosa strana, puoi cercare Hamas e terroristi perché distruggi tutti gli ospedali. Tutte le scuole, 12 università, sono state distrutte, ma non solo bombardate. All'inizio hanno bombardato, poi quando è stata l'invasione via terra, le hanno minate e le fatte saltare in aria. Che senso ha far saltare 12 università, tutte le scuole, tutti gli ospedali? Ha solo un obiettivo, rendere la vita su Gaza impossibile, rendere il ritorno della popolazione palestinese a vivere sul territorio di Gaza impossibile. E poi il piano era preciso, sono partiti da loro, hanno chiesto alla gente di spostarsi verso il centro, poi sono arrivati a bombardare il centro, hanno chiesto alle persone di spingere verso giù, adesso sono a Rafah. E l'ultima soluzione è quella di passare in Sinai, nel deserto, nel nulla, arrangiatevi. È la prima volta che la gente e la popolazione di Gaza e di Deir Balah e di Rafah, che sono città che erano lungo la via della seta una volta, Gaza era il porto, un'informazione che ho capito anche ultimamente, era tra i porti più importanti sul Mediterraneo, dove c'era tantissimo traffico tra Gaza e sul Mediterraneo e l'Europa che passava da Gaza. Ma immaginate che l'abitante di una città, infatti sono molto famosi per essere commercianti in tutta la zona, i commercianti più bravi in Medio Oriente sono di Gaza, portuali, abituati a fare il commercio con l'estero. Per noi è una pulizia etnica, è un genocidio, un esterminio collettivo. E questa spiega la guerra che ha iniziato al nord, poi al centro, poi al sud. I profughi di Rafah sono scappati 2 o 3 volte prima di finire lì sul confine con l'Egitto. È praticamente una nakba continua dal 48. Israele è un paese coloniale fondato su territori rubati illegalmente e non vuole rispettare i diritti internazionali e non viene mai punito. Ma il popolo palestinese conosce molto bene la conseguenza di scappare da casa. Sappiamo cosa significa essere profugo, sappiamo cosa vuol dire essere parcheggiato, destinato a marcire in silenzio in campo di profugo, di profughi lontani dalla propria terra. E per questo motivo l'unica salvezza nostra del popolo palestinese è resistere e stare sul proprio territorio. Infatti vediamo, anche da palestinese mi stupisco, esistono ancora palestinesi che resistono stando sotto la macerie di casa loro nel nord di Gaza, dove hanno bombardato quasi tutte le case e infatti la zona dove sono più affamati, dove non arrivano gli aiuti umanitari, le persone che hanno deciso a resistere su dentro la loro casa. Noi abbiamo a che fare con un governo israeliano criminale, ostaggio dall'estrema destra e da coloni estremisti, che vede in questa occasione, vede in questo momento, un'occasione per continuare a fare la pulizia etnica, prima a Gaza e poi in Cisgiordania. Uno, oltre a Ben Gvir, esiste un altro ministro dell'economia, che è un ministero molto importante nel governo, che si chiama Smotrich. In una dichiarazione Smotrich dice che all'alto palestinese ci sono tre soluzioni: vivere sotto l'occupazione militare israeliana, andare via dalla Palestina o che vengono uccisi. I palestinesi non hanno un'altra soluzione: o vivere sotto occupazione, umiliati, scappare via dalla Palestina, o vengono uccisi. Israele, che non vuole arrivare a nessuna soluzione di tregua, ha l'interesse di continuare la sua guerra a Gaza e anche in Cisgiordania, dove hanno lasciato la mano libera, come abbiamo visto, a coloni aggressivi, estremisti, e attaccare civili palestinesi ovunque e in modi peggiori. Netanyahu è interessato a prolungare questa guerra all'infinito. Infatti impediscono l'arrivo degli aiuti umanitari al nord di Gaza, causando la morte di fame di centinaia di persone. Non rispettano nemmeno la decisione della Corte Internazionale di Giustizia, che ha fatto delle decisioni adesso. Infatti ha chiesto a Israele di fermare l'uccisione di civili. Ha chiesto a Israele di fermare la distruzione delle case e permettere agli aiuti umanitari di entrare e smetterla di manipolare qualsiasi prova che potrebbe accusare Israele di aver compiuto un genocidio a Gaza. Israele non ha rispettato nessuna decisione della Corte. Ha continuato a uccidere quasi di media 100 palestinesi al giorno, ha continuato a distruggere strutture civili e ha continuato a bloccare l'arrivo degli aiuti. A livello internazionale, gli eventi a Gaza ha tolto la maschera dal rispetto del diritto internazionale e dal malfunzionamento di tutti i meccanismi del Consiglio internazionale e delle Nazioni Unite. Abbiamo visto che ci sono due pesi e due misure. Abbiamo visto come è stata condannata la Russia alle Nazioni Unite dalla prima seduta, mentre Israele nessuno l'ha potuta fermare, nessuno è riuscito a imporre un cessato il fuoco a Israele, ma neanche quello umanitario, neanche gli Stati Uniti, che fanno finta di voler fermare gli attacchi israeliani su Gaza, ma allo stesso tempo continuano a fornire la pompa a Israele. Non ne parliamo della complicità dell'Italia, dell'Europa, che Manfredi ne ha parlato abbastanza. A livello mediatico abbiamo visto che la propaganda israeliana ha preso il sopravvento, soprattutto all'inizio, a ottobre, dove tanti giornalisti hanno tradito il loro codice deontologico per saziare la voglia dei loro padroni. Abbiamo visto mistificazione di realtà evidenti e notizie false date come fosse vere e poi mai smentite. Abbiamo visto dare ragione all'occupante, abbiamo visto un processo di disumanizzazione del popolo palestinese. Solo grazie a persone giuste come voi siamo riusciti a denunciare i crimini di Israele e grazie alla resistenza del popolo palestinese e siamo riusciti a far vedere crimini che fa Israele e soprattutto su social media. Cosa vuole il popolo palestinese? Cioè, resistono da 75 anni che continuano a chiedere il loro diritto di ritornare alla propria casa. Quello che vuole qualsiasi persona normale, ha voglia e ha il diritto, come l'ultima canzone, abbiamo il diritto di far sentire la nostra voce al mondo, non ci lasciati da soli, perché questo mondo è troppo difficile per noi. Questo è il testo della canzone che abbiamo sentito. Cosa vogliono i palestinesi? Vogliono vivere in pace sulla propria terra. Vogliono che finisca questa continui dolori, continui sacrifici. Noi stiamo, io sarei la terza generazione che ha subito il 48 e mi rendo conto, crescendo, facendo famiglia, facendo figlio, che sto ancora pagando quella ingiustizia subita dalla mia famiglia dal 48. Il prima che non ho mai avuto la sensazione di vivere sulla mia terra. Io sono nato, cresciuto, di solito dicono che di solito le persone vivono nel loro paese, tranne i palestinesi che il loro paese vive nel loro cuore. Io mi continuo a presentarmi da palestinese e sono stato solo una volta a casa dei miei nonni. In centro città di Hebron, di fronte alla moschea più antica, è una cosa bellissima di sentirsi che io vengo di là e quella è la mia cultura, però io sono la terza generazione che vive fuori e ancora mi presento da palestinese e ci vorrei tornare e non rinuncerò mai, perché quella terra fa parte, fa un pezzo di me, della mia cultura, della mia personalità. E quello che noi siamo palestinesi riusciamo a trasmettere ai nostri figli generazione dopo generazione, che quella terra è un diritto nostro e prima o poi torneremo, anche perché la Palestina non è una terra normale, la Palestina è bellissima e chi vi racconta al contrario è bugiardo, che dice che ha fatto fiorire il deserto era già fiorito prima dell'arrivo dello Stato sionista israeliano. Se vedete di questi giorni, la primavera che c'è a Acco, Jaffa, e poi il popolo palestinese non si è mai affamato. Il popolo palestinese si è sempre dato da fare, un popolo contadino, legatissimo alla sua terra, che ha una storia antichissima, e si è saputo sempre sopravvivere, come faceva la famiglia del mio carissimo amico Ata a casa. Vi ringrazio chi ha fatto l'intervento prima di me. Sappiamo il nostro ruolo come società civile di continuare a chiedere alle nostre istituzioni locali e anche centrali di prendere la posizione giusta, perché rifiutiamo e rifiuto anche come cittadino italiano di rendermi complice, ma non solo di questa guerra a Gaza, perché se allarghiamo un po' lo sguardo su tutto il Medio Oriente, la guerra di Gaza fa una parte di un'altra guerra su tutta la regione che è accesa. Vogliono imporre, ma non solo palestinesi, l'hanno già imposto a siriani, l'hanno già, li stanno, tra poco li imporranno anche agli egiziani, una soluzione totale di tutto il Medio Oriente. Ne abbiamo sentito molto di Medio Oriente nuovo, quindi di dividere, dove ci sono un treccio di tantissimi interessi economici e politici, e quello di Gaza temo che sia il primo passo, perché la forza di resistenza che esistono a Gaza sono la forza di resistenza che impediscono che questo progetto vada avanti, e quindi toglierli di mezzo, sottomettere la popolazione palestinese, gestire tutto il territorio palestinese direttamente dallo Stato israeliano, facendo gli accordi di normalizzazione con altri paesi del Medio Oriente, e questo è l'obiettivo totale. Il primo passo è Gaza. Noi temiamo domani l'intervento in Libano, perché dopo vogliono attaccare Hezbollah e attaccare il Libano. Infatti in questi giorni vediamo che Israele sul confine del nord sta facendo saltare tutte le mine di protezione che sono state piantate dall'esercito israeliano stesso, quindi ci fa pensare che vogliono aprire la strada per i loro carri armati. L'obiettivo è quello di finire Gaza, passare a Libano, fare conti con l'Iran, incendiare tutto il Medio Oriente. E questo non è molto lontano da noi. La prima guerra in Ucraina è qui vicina e la seconda è ancora più vicina. Noi siamo molto più coinvolti, quindi a dirlo non solo per mettere paura, ma di chiedere di ragionare di più su questo e di impegnarci di più, di dire ogni soluzione militare non è accettabile, ci sono tante altre soluzioni nel rispetto dei diritti internazionali e della legalità che possano risolvere questo problema. E i palestinesi non chiedono altro, chiediamo solo che vengano rispettati i diritti umani e le leggi internazionali. E le soluzioni si trovano. Grazie.